compagne mie, stupefatte nuvole, quando tartaruga io male pervengo alla levità vostra, alla vostra perennità. Su alto cielo veleggia, molto veleggia, sempre a lungo veleggia, poi cara pace riflette pace cara, mentre quiete si formano nuvole, hanno musi di topo, di gatto, di coniglio, cingono code di cinghiale, di viva volpe, d'amoroso fringuello, hanno leporini, labbri di cammello e gobbe da dromedario, belano, ragliano, gelano lungamente, ruggiscono, nitriscono, quagliano, zoomorfe nuvole, amore della terra, levitanti ciprigne, muselline di serra.